Ibrahim, Abramo. Bismillahirrahmanirrahim. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Alif Lam Ra. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. Alif Lam Ra. Abbiamo fatto scendere su di te un libro, affinché con il permesso del loro Signore tu tragga le genti dalle tenebre alla luce, sulla via dell'eccelso, del degno di lode. Allah الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. La via di Allah, cui appartiene quel che è nei cieli e sulla terra. Guai a coloro che non credono. Subiranno un severo castigo. Alladhina yastahibbuna al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirati wa yasudduna 'an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja. Essi amano questa vita più dell'altra, frappongono ostacoli sul sentiero di Allah e cercano di renderlo tortuoso. Sono infossati nell'errore. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. Non inviamo alcun messaggero se non nella lingua del suo popolo, affinché li informasse. Allah svia chi vuole e guida chi vuole, ed egli è l'eccelso, il sapiente. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. Già mandammo Mosè con i nostri segni. Fa uscire la tua gente dalle tenebre alla luce e ricorda loro i giorni di Allah. Ecco dei segni per ogni uomo paziente e grato. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. E quando Mosè disse al suo popolo: ricordate i favori che Allah vi ha elargito, quando vi salvò dalla gente di Faraone che vi infliggeva la peggiore delle torture. uccidevano i vostri maschi e lasciavano in vita le femmine. Era questa una dura prova da parte del vostro Signore. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. E quando il vostro Signore proclamò: se sarete riconoscenti, accrescerò la mia grazia. Se sarete ingrati, in verità il mio castigo è severo. وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ. Disse Mosè: se sarete ingrati, voi e tutti quelli che sono sulla terra, Allah, sappiatelo, di nulla bisogna, è il degno di lode. أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ. Non vi è giunta notizia di quelli che vissero prima di voi, del popolo di Noè, degli Ad, dei Thamud e di quelli che vennero dopo e che Allah solo conosce? Vennero i loro profeti con prove chiarissime, ma essi dissero portandosi le mani alla bocca: non crediamo in quello con cui siete stati inviati e siamo in dubbio profondissimo circa quello che ci proponete. قالت رسلهم أفي الله شك كُنْ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى. قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. Dissero loro i profeti: come può esservi dubbio a proposito di Allah, il creatore dei cieli e della terra, colui che vi si rivolge per perdonarvi parte delle vostre colpe e rinviarvi fino al termine prestabilito? Risposero i miscredenti: non siete altro che uomini come noi. Volete distoglierci da quello che adoravano i nostri avi? Recateci una prova inequivocabile. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكُمْ بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Dissero loro i profeti: Certamente siamo uomini come voi, ma Allah favorisce chi egli vuole tra i suoi servi. Non possiamo recarvi una prova se non con il permesso di Allah. In Allah confidino i credenti. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل. E come potremmo non confidare in Allah quando Egli ci ha guidati sui nostri sentieri? Sopporteremo con pazienza le persecuzioni di cui ci farete oggetto. Confidino in Allah coloro che confidano. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن Coloro che non credevano dissero ai loro profeti: Vi cacceremo senza fallo dalla nostra terra, a meno che non ritorniate alla nostra religione. Ma il loro Signore rivelò loro: Distruggeremo certamente gli iniqui. ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. E vi faremo dimorare sulla terra dopo di loro. Questa è la ricompensa per chi teme la mia presenza e teme la mia minaccia. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. Cercarono la vittoria. Fu sconfitto ogni ostinato tiranno. Min waraihi jahannam wa yusqa min ma'in sadid. È destinato all'inferno e sarà abbeverato di acqua fetida. يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. Che cercherà di inghiottire a piccoli sorsi senza riuscirvi. La morte lo assalirà da ogni parte, eppure non potrà morire. Avrà un castigo inattenuabile. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. Questa è la metafora di coloro che rinnegano il loro Signore. Le loro azioni saranno come cenere sulla quale infuria il vento in un giorno di tempesta. Non avranno alcun pro da ciò che avranno fatto. Questa è la perdizione totale. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ. Non vedi che Allah ha creato i cieli e la terra secondo verità? Se volesse, vi farebbe perire e susciterebbe un'altra creazione. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ. Ciò non è difficile per Allah. وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ. قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. Tutti compariranno davanti ad Allah. E i deboli diranno a coloro che erano tronfi d'orgoglio: noi vi seguivamo. Potete ora esserci utili contro il castigo di Allah? Risponderanno gli altri: se Allah ci avesse guidati, certamente vi avremmo guidati. Lamento o sopportazione ormai sono uguali. Per noi non c'è rifugio. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Quando tutto sarà concluso dirà a Satana: Allah vi aveva fatto promessa sincera, mentre io vi ho fatto una promessa che non ho mantenuto. Qual potere avevo mai su di voi se non quello di chiamarvi? E voi mi avete risposto: non rimproverate me. Rimproverate voi stessi. Io non posso esservi d'aiuto e voi non potete essermi d'aiuto. Rifiuto l'atto con cui mi avete associato ad Allah in precedenza. In verità gli iniqui avranno doloroso castigo. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. Coloro che invece credono e operano il bene, li faremo entrare nei giardini dove scorrono i ruscelli e vi rimarranno in perpetuo con il permesso del loro Signore. Colà il loro saluto sarà pace. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. Non hai visto a cosa Allah paragona la buona parola? Essa è come un buon albero, la cui radice è salda e i cui rami sono nel cielo. Tutti ukulaha kulla hinin bi'idhni rabbiha. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. E continuamente dà frutti, col permesso di Allah. Allah propone metafore agli uomini affinché riflettano. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. La metafora della parola cattiva è invece quella di una mala pianta sradicata dalla superficie della terra. Non ha stabilità alcuna. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل Allah rafforza coloro che credono con la parola ferma, in questa vita come nell'altra, e allo stesso tempo svia gli ingiusti. Allah fa ciò che vuole. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. Non li hai visti? Coloro che scambiano il favore di Allah con la miscredenza e trascinano il loro popolo nella dimora della perdizione. جهنم يصلونها وبئس القرار. Nell'inferno in cui cadranno, qual trista dimora. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمت Attribuirono con simile ad Allah per sviare la gente dal suo sentiero. Di, godete pure, la vostra destinazione è il fuoco. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا Dì ai miei servi credenti che assolvano l'orazione e diano in pubblico e in privato parte dei beni che abbiamo loro concesso, prima che giunga il giorno in cui non ci sarà più né commercio né amicizia. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ. Allah è colui che ha creato i cieli e la terra e che fa scendere l'acqua dal cielo e suo tramite suscita frutti per il vostro sostentamento. Vi ha messo a disposizione le navi che scivolano sul mare per volontà sua e vi ha messo a disposizione i fiumi. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. Vi ha messo a disposizione il sole e la luna che gravitano con regolarità, e vi ha messo a disposizione la notte e il giorno. وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. E vi ha dato parte di tutto quel che gli avete chiesto. Se voleste contare i doni di Allah, non potreste enumerarli. In verità l'uomo è ingiusto, ingrato. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. E ricorda quando Abramo disse: O mio Signore, rendi sicura questa contrada e preserva a me e ai miei figli dall'adorazione degli idoli. رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. O mio Signore, in verità essi già han traviato molti uomini. Chi mi seguirà sarà dei miei, e quanto coloro che mi disobbediscono, in verità tu sei perdonatore, misericordioso. Rabbana inni askantu min dhurriyati biwadin ghayri dhi zar'in بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من ثَمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ. O Signor nostro, ho stabilito una parte della mia progenie in una valle sterile, nei pressi della tua sacra casa, affinché, o Signor nostro, assolvano all'orazione. Fa che i cuori di una parte dell'umanità tendano a loro. Concedi loro ogni specie di frutti. Forse ti saranno riconoscenti. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. O Signor nostro, tu ben conosci quello che nascondiamo e quello che palesiamo. Nulla è nascosto da Allah, nella terra e nei cieli. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. Lode ad Allah, che nonostante la vecchiaia mi ha dato Ismaele e Isacco. In verità il mio Signore ascolta l'invocazione. Rabbi ja'alni muqima as-salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. O Signore, concedi a me e ad una parte della mia progenie di assolvere all'orazione. Esaudisci la mia preghiera, o Signor nostro. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. O Signor nostro, perdona a me, ai miei genitori e ai credenti, nel giorno in cui si tireranno le somme. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. E non credere che Allah sia disattento a quello che fanno gli iniqui. Concede loro una dilazione fino al giorno in cui i loro sguardi saranno sbarrati. Muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilayhim tarfuhum wa af'idatuhum hawa. Verranno umiliati, la testa immobile, gli occhi fissi, il cuore smarrito. وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ. Avverti le genti a proposito del giorno in cui li colpirà il castigo. Allora coloro che saranno stati ingiusti diranno: «O Signor nostro, concedici una breve dilazione. Risponderemo al tuo appello e seguiremo i messaggeri. Non giuravate dianzi che per voi non ci sarebbe stato declino?» وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالِ. Eppure abitavate nelle case di coloro che avevano fatto torto a se stessi. E quel che ne facemmo vi era ben noto. Vi abbiamo citato gli esempi. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ. Tramarono, ma la loro trama è nota ad Allah. Fosse anche una trama capace di fare a pezzi le montagne. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. Non credere che Allah manchi alla promessa fatta ai suoi messaggeri. Allah è l'eccelso, il vendicatore. يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ. Avverrà ciò nel giorno in cui la terra sarà trasformata e parimenti i cieli, in cui gli uomini compariranno di fronte ad Allah, l'unico, il supremo dominatore. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ. Vedrai in quel giorno i colpevoli, appaiati nei ceppi. سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. Con vesti di catrame e i volti in fiamme. ليجزي الله كل نفس ما كسبت. Inna Allah sari'ul hisab. Così Allah compenserà ogni anima per ciò che si è meritata, che in verità Allah è rapido nel conto. Hadha balaghul linnasi wa liyunzaru bihi wa liya'lamu annama huwa ilahun wahidun wa liyadhakkara ulul albab. Questo è un messaggio per gli uomini, affinché siano avvertiti e sappiano che Egli è il Dio unico, e perché rammentino i dotati di intelletto.